Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. L'aveva promesso ed è tornato a trovarci in studio Massimo Carlotto con La banda degli amanti, pubblicato da EO. E dico che si tratta di un ritorno non solo di Massimo Carlotto, ma anche e soprattutto, diciamolo, dell'Alligatore, il suo personaggio seriale che non compariva da 5-6 anni. L'Alligatore è, appunto, dicevamo, uno dei personaggi seriali di Massimo Carlotto, inventato circa una ventina d'anni fa, ed è soprannominato così, ma in realtà al secolo è Marco Buratti, investigatore senza licenza. Giusto per non farci mancare niente, Massimo Carlotto, perché ci hai fatto aspettare tanto tempo? Lo so, è la domanda che ti staranno facendo tutti in questo periodo, ma perché hai fatto aspettare così tanto gli appassionati dell'Alligatore? No, ma è una domanda importante, così posso finalmente spiegare ai lettori che erano arrabbiatissimi. C'è stata la rivolta dei lettori, quindi mi sono precipitato a trovare una storia per l'Alligatore, per fortuna l'ho trovata. E io lavoro sulle storie, non lavoro sui personaggi. E quindi se la storia non si adatta a un personaggio seriale, come si dice in un gergo calcistico, sta in panchina. Quindi tu l'ispirazione ce l'hai da un fatto, da un qualcosa, e poi decidi e poi capisci, più che decidere, se va bene per un personaggio o se è necessario inventarne un altro. Esattamente, è proprio così. È per questo che ho dovuto fare poi una riflessione negli ultimi anni sulla serialità. Perché il fatto che i lettori abbiano cominciato a dire non si trattano così lettori, non è che inizi una serie e poi fai quello che vuoi, è in realtà giusto, è corretto. Perché, cioè, il personaggio diventa quasi proprietà, fra virgolette, dei lettori. È proprietà dei lettori, nel senso che lo condividiamo al 50%, è una multiproprietà, insomma. E da questo punto di vista bisogna gestirlo saggiamente, per cui adesso ho trovato una serie di storie per l'Alligatore, circa quattro, insomma. Cioè, quando troppo e quando niente, insomma. No, prima però, non ce n'erano, adesso ce le spari una dietro l'altra. No, e però non continuerò a scrivere altro, però diciamo che l'Alligatore uscirà con più frequenza. E già sappiamo che uscirà un altro Alligatore entro il 2015, questo a novembre. Possiamo dire. A novembre, quindi c'è già la data, ho firmato col sangue, queste cose qui. Per compensare i famosi 6 anni di buco, diciamo così. Anche in questo caso tu ti sei fatto ispirare dalla realtà, spesso le tue storie prendono spunto, in questo caso proprio una signora ti ha raccontato, come dire, ti ha dato il là per una storia. Sì, una signora, in realtà prima è arrivata la mamma, che mi ha detto: Carlotto, io non amo per niente i suoi libri, sono veramente brutti. E questa era la premessa. Questa era la premessa, dice: io arrivo a pagina 20 e poi li abbandono. Però dice: mia figlia le deve raccontare una storia. E ha premesso che anche la figlia non amava per nulla i miei romanzi. Bene. Ho incontrato la figlia che mi ha confermato che non amava i miei romanzi, però ha detto: lei è l'unico che può scrivere questa storia. E mi racconta questa storia di una coppia assolutamente clandestina di amanti che viene ricattata. Ovviamente la storia è capitata a una sua amica. Diciamo così. Sì, succede. No, sulle storie incredibili. Capitano sempre mio gli amici. Cugino! Esattamente. Funzionano allora, sempre così. Ma rispettiamo così la privacy, naturalmente. Ma certo. E mi racconta questa storia, che ovviamente è molto più leggera di quella, è meno romanzata di quella della Banda degli Amanti, però mi ha molto colpito il fatto che comunque dei criminali vadano a colpire le persone anche con lo strumento del ricatto, persone che in realtà cercano di farsi fatti propri, di vivere una relazione, si amano, no? Quindi li ricattano. Li ricattano. Io sono intervenuto, cioè ho proprio detto: su questa storia voglio intervenire, voglio scrivere, perché la trovo di una grande violenza. E allora ho annusato un po' in giro la storia. La signora mi aveva detto che questa storia era capitata a Padova. E guarda un città. Po' che è la tua città, e come sappiamo tu hai ambientato diversi tuoi libri nel nord-est, hai proprio esaminato, come dire, il meccanismo della criminalità del nord-est e anche i cambiamenti della società negli ultimi tempi. In questo romanzo quindi c'è l'alligatore, lo vediamo all'inizio, è piuttosto demoralizzato, è quasi depresso, insomma, incontra questa donna, questa signora svizzera, che lui chiama la Svizzera, che cerca di convincerlo a forza a indagare sulla scomparsa appunto del suo amante, da qui nasce l'indagine. E nell'indagine, come sempre, verrà accompagnato, insomma, dai suoi fidi. Per esempio Max la Memoria, Beniamino Rossini, sì, ma è Max la Memoria che spinge molto l'alligatore, perché per loro è un modo di vivere, nel senso che loro non stanno con la criminalità di cui hanno orrore e nemmeno amano troppo questa società. Vivono in una sorta di nicchia e per loro indagare è lo strumento per capire il mondo, per avere un contatto col mondo. E quindi Max la Memoria questo l'ha capito benissimo e spinge l'alligatore ad accettare questo caso. Infatti a un certo punto l'alligatore dice alla Svizzera, questa signora, avevo raccontato una mezza verità. Il vero motivo che mi spingeva a dare la caccia alla banda dei sequestratori era che mi avrebbe allontanato per chissà quanto tempo dai miei problemi. E questo valeva anche per Max. Investigare significava imboccare un tunnel dove il buio impediva di guardarsi attorno. Scoprire la verità su faccende che non mi riguardavano era un toccasana per il crollo emotivo in cui ero precipitato dopo il suicidio di Sylvie. Perché in realtà poi l'alligatore sembra un uomo così rude, brusco, ma ha dei sentimenti profondi, insomma. Sì, beh, è quello che tiene in piedi lui e i suoi amici, il fatto di avere un'etica, una morale, dei principi molto, molto saldi. E in questo romanzo c'è una cosa che ha colpito moltissimo i lettori, che è quello del suicidio di Sylvie, che è stato un momento molto importante, una svolta che appunto li ha depressi fortemente, soprattutto li ha gettati nello sconforto. Hanno capito che dopo la morte di Sylvie è legata anche alla fine di una faida che li aveva tenuti appunto impegnati per molti anni, che racconto nel romanzo. Alla fine si sentono svuotati e sconfitti, devono ricominciare in qualche modo a vivere. Tornando nello specifico alla trama di La Banda degli Amanti, a un certo punto compare anche un personaggio caro ai lettori di Carlotto, perché fa in modo che l'alligatore incontri Giorgio Pellegrini, insomma la mente criminale che era stata già protagonista di alcuni tuoi romanzi precedenti, senza svelare troppo, ovviamente. Come avviene questo incontro e che cosa scoppia, diciamo, che scintilla scoppia fra i due personaggi? Innanzitutto devo ringraziare i lettori per avermi consigliato di introdurre. Anche qui è sempre colpa dei lettori. Merito. Perché quando ho annunciato che sarebbe tornato l'alligatore, sono arrivati i fan di Pellegrini dicendo: e noi? Par condicio. Allora, mi è venuta questa idea del crossover, ci ho messo dentro anche Campagna, rispetto a Giulio Campagna. Giusto. E li sei tolti di mezzo tutti e tre. Ma sì, ma perché vivono lo stesso territorio e quindi in qualche modo un giorno era proprio destino che si incontrassero. No, Pellegrini era il personaggio giusto proprio per essere il capo della banda degli amanti, anzi l'ideatore. Oggi c'è questa criminalità che ha una creatività incredibile, si inventa di tutto e lui è il personaggio giusto per un tipo di crimine che entra nella vita delle persone, perché lui è un dominatore, è un personaggio terribile e che mette in piedi proprio la banda degli amanti, e l'incontro ha un profilo enogastronomico. Definiamolo così. Senti, nel momento in cui tu scrivi l'alligatore, quindi parli con la voce dell'alligatore, come fai a ritrovare proprio da scrittore sempre la sua voce, magari a non confonderla con quella di tanti altri personaggi che nel frattempo hai scritto? Ma da un lato perché i personaggi non ti abbandonano mai, in fondo pensi sempre, a volte ti ritrovi a ragionare proprio con il personaggio. E poi perché quando la storia impone in un certo modo la presenza di un personaggio, appunto ragioni come lui, ma dopo 6 anni non ho avuto difficoltà a a ritrovare il personaggio, anzi i personaggi, perché io ho sempre cercato di adeguarli ai tempi. È vero, c'è un'evoluzione nei tuoi personaggi. L'Alligatore non è lo stesso di 20 anni fa. Non è un'evoluzione, invecchiano. Invecchiano. Diciamo bene, giusto. Invecchiano. No, questo è un processo mentale che di vederli invecchiati e capire che mi aiuta molto a entrare sempre nei personaggi. Ormai il fatto di adeguarli al tempo in cui vive la storia è fondamentale, secondo me. È proprio una concezione diversa, questa è la concezione europea, al contrario della concezione americana, invece i personaggi sono sempre uguali a loro stessi, ma è il mondo che cambia intorno a loro. A proposito di questo confronto, diciamo, Europa-Stati Uniti, Massimo Carlotto è sicuramente una delle voci del noir italiano ed europeo più importanti, insomma, più seguite anche dai lettori. Mi spieghi perché i personaggi che devono investigare nei noir, nei gialli, nel caso specifico l'Alligatore, sono sempre, bevono, fumano, hanno una vita personale disastrata, vivono sempre un po' ai confini della società, mettiamola così. Nel tuo caso addirittura l'Alligatore non ha la licenza per indagare. Perché sono sempre personaggi borderline? Perché il fatto di essere borderline li pone in una situazione privilegiata, che è quello del punto di vista esterno rispetto al mondo in cui indagano. E questa è una caratteristica fondamentale. Se sei perfettamente integrato, non sei in grado di guardare intorno, non sei in grado di cogliere l'essenza, non sei in grado di imboccare la strada giusta per risolvere un caso, perché sei troppo dentro. Invece il punto di vista esterno è un punto di vista straordinario, ti permette proprio di fotografare, che è quello che a me interessa nei romanzi, fotografare la realtà perché la osservi da lontano. E poi perché è un personaggio conflittuale, è un personaggio che è pieno di ombre. Chi meglio di uno che è pieno di ombre, no, può confrontarsi con la realtà, con la verità. E lo scrittore di noir deve essere anche lui un po' borderline, deve avere questo sguardo sulla realtà per riuscire a captare che cosa può raccontare nelle sue storie. Questo non lo so, posso parlare per me, io sì sono borderline. No vabbè, diciamo, non in senso psichiatrico. No, però sono esterno, nel senso che io ovviamente non sto come i miei personaggi, né con la criminalità che mi fa orrore, non mi piace nemmeno questa società, per cui la osservo da lontano. Credo che sia importante anche per un autore occuparsi del proprio tempo, il tempo che attraversa se ne deve occupare, e questo ti comporta comunque un certo tipo di confronto. Ma io proprio prediligo il punto di vista esterno, stare fuori e osservare. Grazie Massimo Carlotto, ora in libreria con La banda degli amanti, il ritorno attesissimo dell'Alligatore pubblicato da EO. Ricordiamo che a novembre uscirà, come dire, il sequel della Banda degli amanti, quindi ancora una volta l'Alligatore. Se vuoi uno scoop, ti posso dire, essere la prima a conoscere il titolo. Sì, ti prego. Per tutto l'oro del mondo. E allora a novembre per tutto l'oro del mondo torna l'Alligatore, tornerà anche Massimo Carlotto, ve lo posso assicurare. Adesso una breve pausa, poi torneremo ancora a parlare di libri. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Il cacciatore di libri. In molti amano l'odore della carta, alcuni ne vanno proprio pazzi. Quando comprano un libro, se lo avvicinano al naso e aspirano forte chiudendo gli occhi, talvolta mugolano. Se entrano in una biblioteca, inspirano a pieni polmoni come fossero in alta montagna. Poi estraggono un vecchio volume del primo scaffale e ci tuffano la faccia con l'intenzione apparente di baciarlo. Questo è l'incipit di un libro di una esordiente Alice Basso che si intitola L'imprevedibile piano della scrittrice senza nome, pubblicato da Garzanti. Fa parte un po' del filone dei libri per chi ama i libri, che parlano di lettori, di scrittori, di librai. In questo caso la protagonista è una ragazza, Vani, che potremmo definire anche un po' sociopatica, insomma, una ragazza strana, fa fatica a rapportarsi agli altri e di professione fa la ghostwriter, scrive cioè libri al posto di qualcun altro. Ma sentiamo come Alice Basso ha descritto la sua protagonista. Allora, in realtà Vani è strana perché è un collage, e aggiungerei fortunatamente, perché una persona sola con tutte queste caratteristiche potrebbe essere un pochino inibente, credo. La base l'ho presa da una mia carissima amica, che è un po' più grande di Vani adesso, e tra l'altro ha due figli, di cui una è la Morgana del libro, ma queste sono cose confidenziali. e ha le caratteristiche principali di Vani, cioè era una specie di punk dark da giovane, ha sempre la battuta fulminante su tutto, se può farla anche distruttiva oltre che fulminante più contenta, ed è uno spasso da ascoltare perché veramente potrei dire ti mette di buon umore, in realtà no, però il concetto è proprio quello, che è divertentissimo ad ascoltare. Poi ci ho messo dentro un pochino di altre persone di mia conoscenza, una delle quali, se posso dire una cosa un pelo più sentimentale, era mia mamma, perché era una che non si lasciava mai abbattere dalle cose, infatti anche la protagonista è una che non sta certo a piagnucolarsi addosso, e poi niente, un po' di caratteristiche pescate di qua di là da persone che trovavo interessanti, il tutto sull'impalcatura un po' autobiografica di una che lavora in una casa editrice, perché ovviamente uno poi ci mette quello che conosce meglio, e quindi poi vabbè, ci sono due o tre caratteristiche ancora un po' autobiografiche, però devo dire che non è che sia la mia foto e ci tengo. No, beh, questo infatti c'è una regola in questo programma Il Cacciatore di Libri, non si fa mai una domanda, cioè se il romanzo è autobiografico, io mi rifiuto di farla perché dico sempre che è chiaro, gli scrittori mettono tanto, un pezzettino, qualcosa di sé in tutti i romanzi, quindi questa domanda ti verrà, come dire, evitata. Vani è una ragazza, forse potremmo definirla sociopatica quasi, insomma sembra che odi un po' tutti, insomma non si relaziona bene con le altre persone. Eppure è un dono speciale, quello di capire cosa provano le altre persone. Eh sì, questa è una cosa che io trovo molto interessante, che mi è stata insegnata, non è farina del mio sacco, che l'empatia non è necessariamente bontà, simpatia, amichevolezza e così. L'empatia è un'altra cosa, l'empatia è sapersi mettere nei panni dell'altro e sapere i confini della sua personalità, ma non è detto che venga necessariamente, cioè sì, in genere sì, la vediamo associata anche a delle caratteristiche di amichevolezza, di simpatia, perché le persone sono felici di rispecchiarsi in qualcun altro, però non è mica sempre detto che sia così, e questa qui era la parte un po' più originale, un po' più buffa della situazione. Secondo me anche a Vani non è che piaccia tantissimo essere proprio sempre così nella testa degli altri, dato che gli altri non è che le siano proprio particolarmente simpatici. Vani, dicevamo, lavora in una casa editrice, qui lo dobbiamo dire, insomma c'è l'aspetto autobiografico, l'hai detto tu stessa, insomma, perché anche tu lavori in diverse case editrici, nell'editoria appunto. Lei ha un compito particolare, cioè quello di fare la ghostwriter, di scrivere sostanzialmente i romanzi per altri, che deve essere una cosa anche un po' frustrante, insomma esce un libro, diventa magari un best seller, non facciamo nomi, e invece l'hai scritto tu e non puoi dirlo a nessuno, come vive questa frustrazione? Infatti io penso che soltanto un personaggio sociopatico, come hai detto tu perfettamente, come lei, cioè una che ama stare nell'ombra, meno contatti ha con il resto del mondo meglio sta, possa vivere questo ruolo in maniera continuativa, prolungata e convinta, perché poi è vero che ognuno, insomma, specialmente nel mondo della creatività, della scrittura, vorrebbe avere, insomma, godere dei frutti di quello che scrive, ci vuole un po' di fegato, di pelo sullo stomaco per così disinteressarsene totalmente. Io penso che il ghostwriting venga assegnato più che altro a persone che lo fanno una volta ogni tanto su argomenti di cui sono ferrate, e quindi non è che proprio macerino in questa situazione molto a lungo, perché sarebbe un po' così consumante, però invece lei ci riesce perché ha il carattere giusto. E qui tu inserisci, come dire, una punta di giallo in questo romanzo, perché una scrittrice per la quale lei fa appunto la ghostwriter scompare misteriosamente, quindi bisogna indagare sul perché, il per come, soprattutto che fine abbia fatto, e lei è la persona forse che l'aveva più compresa? Dunque, più che altro, non si tratta tanto dell'avere compreso il personaggio, di avere stabilito una simbiosi con quell'autrice in particolare, perché in fondo un ghostwriter lo fa con tutti i suoi autori per mestiere. Lo spunto è venuto dal fatto che, sappiamo tutti che adesso vanno fortissimo tutti quei serial TV in cui ci sono delle figure professionali pagate per entrare nella mente del killer, queste cose, no? Un giorno io ci ho pensato su e ho detto, però un momento, io la conosco, la figura professionale che lo fa abitualmente, è quella di chi si mette nella testa dell'autore per cui scrive libri. Quindi, visto che... Ma non tutti gli scrittori sono serial killer. Spero di no. Nella mia esperienza no, però non si sa mai. No, fortunatamente. Però insomma il meccanismo è quello, entrare nella mente di un'altra persona per cercare di capire che cosa può aver fatto. Esatto, oppure per capire bene il suo messaggio, in questo caso anche, quindi da chi può essere stato recepito, come può essere stato deformato, che interessi può avere suscitato nel bene e nel male, quindi insomma farsi un po' un'idea anche dal punto di vista del profilo psicologico sia dell'autore che di chi gli ruota intorno, e quindi conoscere un po' l'ambiente. E sì, e questo è il trucchetto che, che sta alla base del suo coinvolgimento. E quindi insomma Vani finirà per aiutare l'investigatore a cercare di capire qualcosa in più sulla scomparsa di questa scrittrice. Per te questo è l'esordio, il primo romanzo pubblicato, però hai detto che lavori nelle case editrici. E allora una confessione, tu hai mai fatto la ghostwriter? Ah, intanto uno non lo potrebbe dire. No, non ti ho chiesto di chi, ti ho detto solo se hai fatto il peccato, non il peccatore. No, comunque no, mai. Mi ci sono avvicinata perché tante volte, specie quando si fa saggistica, si deve proprio lavorare gomito a gomito con il saggista, che non è detto che sia anche esperto di scrittura, per ristrutturare il libro, lavorare sullo stile, renderlo potabile a tutti. Che brutta parola, potabile, vabbè, renderlo accettabile per tutti i lettori. Però no, proprio ghostwriting spudorato e spinto, no, fortunatamente non mi è mai capito. Perché io non sono come Vani, non so se riuscirei. Non so se riusciresti a scrivere e poi a pubblicare col nome di qualcun altro. Esatto, e poi ritirarmi nell'ombra e guardare costui avere un sacco di successo mentre io mangio patatine al formaggio davanti alla TV che trasmette le sue interviste. E questa era Alice Basso, ora in libreria con L'imprevedibile piano della scrittrice senza nome, pubblicato da Garzanti. Prima di chiudere vi voglio segnalare un festival letterario, insomma inizia l'estate, questo è il periodo in cui si concentrano molte iniziative di questo genere. Questa volta si tratta di Leggendo Metropolitano, a Cagliari dal 4 al 7 giugno. È un festival internazionale, vengono ospitati scrittori appunto sia stranieri che italiani. Vi faccio alcuni nomi di questa edizione: Enrique Vilamatas, Vinicio Capossela, che insomma con il libro che ha appena pubblicato è candidato al premio Strega, ma c'è anche l'economista Jeremy Rifkin, gli italiani Marco Missiroli e Cristiano Cabina, e si chiude decisamente in bellezza con Patrick McGrath, l'autore fra gli altri libri di Follia, che era stato un bestseller. L'appuntamento dunque è a Cagliari con Leggendo Metropolitano dal 4 al 7 giugno. Anche per oggi è tutto, grazie in regia a Roberta Frisani. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Per essere sempre aggiornati potete seguirmi anche su Twitter. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.